Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. È probabile che ai tempi di Monsignor Roig, chiesa, sagrato, episcopio, formassero un solo corpo. Perché altrimenti quelle mura di granito che chiudono come in un abbraccio il pendio alberato fuori della chiesa e si aprono solo con vasti gradini sulla via selciata di recente fattura che corre lungo la cinta dell'episcopio? Vero è che la cattedrale alta, severa, sproporzionata, non ha nulla a che fare con la casa dei vescovi, quella casa terrena che ricorda in grande la casa dei contadini di Seona, che più che vederla si indovina attraverso le palme che superano la cintura colorata di rosso. A pensarla potrebbe essere la dimora estiva di un piccolo signore di provincia, col patio ombreggiato, addirittura una dimora di piacere se non fosse per quei lunghi preti neri che andavano e venivano nelle ore di ufficio. I vescovi arrivavano, prendevano stanza, venivano travolti dalla morte, proprio come i papi a Roma, e ciascuno era come un piccolo papa in quel borgo di 7.051 abitanti che contava almeno 40 fra canonici e preti, due conventi di monache, le ricche e le povere, come li chiamavano, e un seminario che era come il primo gradino della speranza per i contadini dei paesi, ansiosi già allora di inurbarsi. E tutto questo in mezzo a una popolazione istintivamente pagana, come del resto erano mezzo pagani i canonici e i preti, che non si riconoscevano l'uno nell'altro e riconoscevano il vescovo perché era un estraneo. Ma non era stato sempre così. Anche Nuoro aveva avuto, come Roma, i suoi pontificati d'oro, diciamo il suo Giulio II o il suo Leone X. Un oscuro medioevo si estende per due secoli dopo il fantomatico Monsignor Roig. Il primo vero vescovo di Nuoro, quello che doveva lasciare negli animi un ricordo di sé e del suo tempo più duraturo della prolissa lapide che gli hanno dedicato a Santa Maria e che nessuno riesce a leggere perché è scritta in latino, è stato Monsignor Dettori, venuto coi suoi civili modi galluresi nella selvaggia Barbagia. Qui devo avvertire onestamente che quel che dico può essere tutta una fantasia, perché l'ho appreso da bambino nei racconti di Don Sebastiano, seppure non me lo sono sognato, perché la figura del primo vescovo è avvolta in un alone di favola. Il fatto è che egli era ricco e dalla gallura aveva portato con sé nel piccolo episcopio rossigno la sua ricchezza. Quando egli arrivò, e doveva essere nell'ultimo quarto dell'Ottocento, il Chischeddu di allora riempì il cielo e la terra dei suoi rintocchi e Don Priamo, che abitava proprio all'ombra della chiesa, come abbiamo detto, ne sarebbe rimasto assordato se non fosse uscito con tutti i notabili per andargli incontro al quadrivio, il crocicchio al quale facevano capo tutte le strade che venivano dal fosco interno prima di fondersi nell'unica via che lastricata doveva diventare il corso. Rustici e signori andavano sempre incontro al vescovo che prendeva possesso della diocesi, come si dice pomposamente, ma in sostanza era un ospite di riguardo e nient'altro. Poi ciascuno tornava a vivere per conto suo. Ma stavolta i piccoli indigeni nuoresi videro scendere dalla carrozza un uomo alto e grosso che li benediceva dall'alto, li carezzava poveri e ricchi con uno sguardo celeste e sorrideva. Anche i canonici con l'ermellino e i preti con la cotta un po' funebre ne furono sorpresi, e più lo furono quando videro che il vescovo non era venuto solo, ma si portava appresso due fraticelli dimessi col loro cordiglio bianco intorno alla vita, frati o conversi, non si era capito bene. Monsignor Dettori era un vescovo come tutti gli altri, di cui non c'era rimasta la traccia nemmeno in Camposanto, ma aveva il dono della regalità. Questa gli veniva dalla sua personale ricchezza, certo, ma anche a Nuoro c'erano molti ricchi, solo che la solitudine li rendeva anarchici e avari. Vissuto non nelle tristi parrocchie dell'interno, a perdere il tempo con i peccati della gente, ma nella segreteria dell'arcivescovo di Cagliari, si era naturalmente trovato a percorrere la via degli onori, e quello della cattedra vescovile era il massimo che poteva toccargli, quello al quale avrebbe aspirato appena presa la tonsura, se il prete distinto non si vietasse, quasi per esorcismo, ogni aspirazione. Quello di Nuoro era l'ultimo vescovato della Sardegna e quindi del mondo, ma a parte che l'unità di misura della Sardegna e del mondo non è la stessa, tutti i vescovati sono un regno per chi ha la vocazione di regnare. E Monsignor Dettori, in quella remota contrada divorata dalle rupi e dai banditi, fece del palazzotto vescovile una reggia e tenne la sua corte pittoresca tra pontificali e banchetti, sempre però nel nome di Dio, che non era un pretesto, ma una fede sicura, fondata sull'ormai antica dimestichezza e sulla gratitudine. Quei due frati o conversi, ma li faremo d'ora in avanti conversi per semplicità, erano essenzialmente due cuochi. Facevano di tutto, certo, ma tenevano soprattutto gli uffici di bocca, come si diceva al tempo dei re, del vescovo, cioè curavano la cucina e la mensa. Monsignor Dettori era una persona di illibati costumi, ma conosceva, perché l'aveva appreso alla scuola dell'arcivescovo, i limiti tra il divino e l'umano. La buona tavola si manteneva dentro questi limiti, non solo, ma li rendeva più sfumati, perché addolciva e conciliava gli animi. Egli sapeva benissimo, quando gli giunse la notizia che il lontano Papa si era degnato di provvedere alla diocesi di Nuoro nella sua modesta persona, che sarebbe andato in un luogo inameno, dove non c'erano che poveri, perché i ricchi erano più poveri dei poveri, tra gente dominata dalle passioni, in mezzo a preti riottosi e fanatici, e quindi lontani da Dio. Ma appunto questo contrasto con la sua civile gallura lo aveva affascinato. E poi, se volete saperlo, ogni sardo, per quanto si ritenga superiore, perfino i tronfi sassaresi e gli spagnoleschi cagliaritani, guarda a Nuoro come alla sua seconda patria. Perciò, quando nel varcare dal quadrivio dove era sceso la soglia del suo regno si imbatté nel mare di casette di Seuna che abbiamo a suo tempo descritto col carro davanti alla porta e i bovi infiorati in suo onore, lasciò il corteo e si avviò con la sola scorta dei conversi tra i macigni delle strade agresti e le tracce odorose degli animali. Egli sovrastava dal petto in su le misere case e doveva chinarsi per parlare coi seonesi, ma i suoi modi erano così strani, cioè così gentili, che parve alla povera gente un messia. «Ho capito», disse Canonico Mocci, che era un sant'uomo ma era sempre un po' alticcio, «questo monumento ha la smania della popolarità». «Tieniti la lingua in bocca», gli rispose Canonico Mura, che era dubbio, secondo Canonico Mocci, se sapesse leggere e scrivere. L'arciprete, che era Canonico Pirri e veniva da San Pietro, dove si adoperava a temperare lo spirito di rapina dei suoi ricchi parenti, guardava le mosche che facevano aureola intorno alle teste dei suoi confratelli. Ma egli era per grado il più vicino al vescovo e questo gli imponeva di non dare neppure espressione al viso dalle mascelle cascanti. I notabili, col sindaco in testa, sentivano che qualche cosa stava per cambiare con questo vescovo gallurese nella vita di Nuoro. E infatti, qualche giorno dopo, essi si videro arrivare nei loro fortilizi un messaggio portato a mano da uno dei conversi, nel quale Monsignor Dettori li invitava a pranzo per la domenica successiva, dopo la messa cantata. I nuoresi avevano per natura uno spirito laico, anche per via dei beni della Chiesa che molti avevano acquistato ai tempi dell'eversione, allora non tanto lontani, ma soprattutto perché conoscevano i preti uno per uno e non li stimavano, salvo il rispetto per l'estrema unzione. Perciò accolsero lo strano invito con diffidenza. Don Gabriele e Don Serafino, che stavano davanti a Don Sebastiano, si misero a guardare dalla finestra quella domenica che cosa avrebbe fatto lui. E quando videro che Don Sebastiano, che era di natura sensibile alle lusinghe, si avviava per la salita dell'episcopio con l'abito delle feste, si precipitarono al basso e lo stesso doveva aver fatto Don Pasqualino, perché dopo un poco lo si vide ranchettare per l'erta col bastone che portava per sostenere la gotta. La gotta, il male dei ricchi, lo rendeva sobrio e la vista dei terribili tofi alle articolazioni delle mani gli toglieva l'appetito. Ma l'invito del vescovo l'aveva incuriosito e non aveva potuto declinare l'offerta. Basta. A mezzogiorno, quando l'ultima eco dell'ite missa est, allungato nella gola del celebrante di almeno 10 metri, si era dispersa da un pezzo nei cieli altissimi di Nuoro, si ritrovarono in 12 davanti a una mensa ornata come un altare, sotto un pergolato da cui pendevano stalattiti e ancora cerulee per il solfato, all'aperto, ma come in un seguito delle lunghe stanze sacerdotali per via delle porte spalancate. Vescovi ignoti guardavano dalle pareti e sembrava strizzassero gli occhi non abituati alla luce. Lungo il muro le grandi palme mostravano una gran voglia di maturare i loro datteri e dall'orto di sotto, l'orto di Monsignore come lo si chiamava, veniva un odore pagano di miele tra il ronzio delle api affaccendate nel glorioso meriggio. Quando Monsignor Dettori apparve col suo lungo abito senza macchie e lo zucchetto rosso, erano già tutti un poco inebriati. Quest'uomo così diverso da loro parlava anche la loro lingua, perché l'arcivescovo di Cagliari amava villeggiare quando poteva nella Barbagia e se lo portava appresso perché lo sapeva fedele. Parlava semplice e dotto nello stesso tempo, non potendosi un vescovo permettere di parlare solo semplice, e si teneva sulla terra, ben sapendo che, specialmente con questi provinciali troppo intelligenti, non conviene nominare Dio invano. Così finì che tutti, prima di sedersi a tavola, si fecero il segno della croce, se non altro per non dispiacergli. Nell'attesa, egli spiegava che aveva amato Nuoro da quando al seminario di Sassari aveva conosciuto un ragazzo pallido e triste che cantava in versi dolenti la patria lontana e recitò qualche sua poesia. «So solu, mischinu, chindolu continu». «Quello era canonico Solinas», gridò quasi canonico Sanna, poiché ai notabili si erano aggiunti alcuni canonici, che era parente per via di madre di donna Vincenza. Io lo conoscevo molto bene. «E dove si trova adesso?» chiese il vescovo. «È morto, poveretto. Aveva solo 29 anni, per quanto fosse già canonico». Un brevissimo, impercettibile silenzio turbò il sereno svolgimento della festa, come quando in un salotto si commette una gaffa ai danni della padrona di casa. Ma per fortuna, proprio in quel momento, arrivò il converso con un grande piatto al quale tutti rivolsero gli occhi. «Questo è fratel Giossanto», disse il vescovo, «che mi segue da 20 anni. Non è il cuoco, però. Il cuoco è fratel Baingio, che ha girato il mondo prima di arrivare alla curia. È stato anche in America e ha cucinato in case di re. Ora, però, non lo lascerò più andare». Il piatto che fratel Giossanto aveva preparato era un pollo. Ma era un pollo strano che giaceva sul grande ovale d'argento come un cuscino. Il piatto fu messo in mezzo alla tavola perché il pranzo di un vescovo sardo, per quanto raffinato, conserva sempre un che di rusticano, e Giossanto fece le parti cominciando dal suo vescovo. Gli ospiti si avvidero allora che era un pollo senza ossa, con tutta la sua pelle intatta. Don Pasqualino, che era quello che più aveva viaggiato, era stato a Torino, quando era la capitale, e poi a Roma, disse a voce alta quello che ciascuno aveva in mente. Non avevo mai visto un pollo fatto così. Allora fu tutto un coro di lodi e fratel Baingio dovette presentarsi e spiegare a quei mangiatori di agnelli e di porcetti come si fa a far uscire lo scheletro di un pollo dalla propria guaina. Le portate furono 6 e alla fine fu servito il caffè che i canonici bevvero dal piattino dove lo versavano per raffreddarlo. Quando il vescovo si alzò, disse le parole di ringraziamento e tutti fecero coro. Poi tutti se ne andarono e ciascuno fu quello di prima, ma insieme sentivano oscuramente che la vita poteva avere una sua grandezza e una sua dolcezza. E Monsignor Dettori riuniva questa dolcezza e questa grandezza nella sua persona. Per la prima volta quei barbari nuoresi si accorgevano di avere un vescovo e il guaio è che sarebbe diventato il modello di tutti i vescovi. Monsignor Dettori non riduceva naturalmente a un agape borghese il suo ministero. Egli era caritatevole e la carità esercitava con le parole buone e con le elemosine. Con l'andar del tempo aveva istituito addirittura un elemosiniere nella persona di fratel Giossanto. Tutti i venerdì salivano da Seuna o scendevano da San Pietro all'Episcopio i mendicanti di cui Nuoro era piena. Arrivava da Seuna Poddanzo, che era un vecchio rustico, piccolo, tozzo, e sarebbe potuto apparire normale se il cervello non si fosse dimenticato di crescere. Era semplicemente rimasto bambino, a 70 anni, e così, morti i suoi, si era ritrovato solo. Allora era entrato nel grande mare della carità e dell'odio paesani, perché c'era chi gli dava 5 centesimi, ma c'era chi gli dava la baia, e gli metteva paura. Stava in una casupola proprio ai margini del corso e andava a fare i suoi bisogni dietro la casa operaia, che era in fondo alla tanca, al giardinetto, che quel continentale aveva piantato, ma era già un letamaio. Una volta era caduta la neve per 3-4 giorni. Nuoro era come scomparsa, ma Poddanzu continuava ad avere i suoi bisogni e così la sera uscì per recarsi al solito posto. Allora quei signori del caffè Tettamanzi si presero un gusto. Il più abile di loro, che era un gran cacciatore, prese la mira con una palla di neve e la centrò. Sì, la centrò. Poddanzu, atterrito, con le povere mani, sgombrava la poltiglia che si era formata e urlava chiamando la giustizia, cioè i carabinieri a piedi e a cavallo che erano di stanza a Nuoro. «Carabinieri a piedi e a cavallo, aiuto, aiuto, che mi vogliono uccidere!» Fu uno spasso. La bravata entrò a far parte della storia di Nuoro e qualcuno, forse, se la ricorda. Ad ogni modo, è arrivata fino a me. Veniva da San Pietro, Zesarino, che non era norese, ma di Dorgali, e perciò quel poco che diceva lo diceva nel linguaggio soffiato, quasi arabo, di quella gente. Se Poddanzu era tozzo e piccolo e in costume, Zesarino era lungo e magro e vestiva da cosinu, che era il nome che allora si usava per chi vestiva da borghese, senza essere borghese. Più che lungo, era immenso e aveva braccia, gambe, testa disarticolate. Egli non era un isolato perché solo non avrebbe potuto assolutamente vivere. Aveva trovato un ricettacolo presso 2 vecchie continentali sardizzate che lo tenevano in una capanna in fondo a una corte e tornava utile perché all'imbrunire si caricava sulle spalle una latta con tutti i rifiuti di quelle povere donne, che anche loro non si sapeva bene di che cosa vivessero, e scendeva al letamaio di Mughina, perché ogni quartiere aveva il suo, a rovesciare i rifiuti. I ragazzi lo sapevano e lo aspettavano al varco nel giardinetto e lanciavano sassi contro quella latta che risonava e si ammaccava. Zesarino non reagiva perché aveva paura dei bambini. Solo una volta ne rincorse uno con uno sghignazzo pauroso. Quello restò impietrito e si fece pipì addosso. Ma Zesarino non gli fece nulla. Forse intuì nell'oscurità della sua anima che se lo avesse picchiato, il paese gli avrebbe dato torto. Un'altra volta quei Chiseddos, che erano pastori di San Pietro, lo portarono nel loro ovile e gli arrostirono un agnello. Zesarino mangiava una volta alla settimana e si buttò su quella grazia di Dio. Dopo pochi bocconi fu sazio, ma quelli lo costrinsero a mangiare ancora, finché a un certo punto Zesarino cadde come morto. I pastori ebbero paura, ma quando si riscosse, egli cominciò a lodarli per tutta Nuoro, dicendo: «Che buona gente quei Chiseddos! Mi stimolavano sempre a mangiare, per poco non sono crepato!» E anche questo passò alla storia. Veniva di Ripezza, che aveva la sua dimora in fondo al corso, presso il ponte di ferro, e pare fosse di buona famiglia e fosse stato, così raccontava, a Custoza, ma ora non aveva più braccia per lavorare e sedeva sul lastricato senza mai chiedere nulla. Se qualcuno gli dava un soldo, baciava la moneta e la metteva in un sacchetto di cuoio che portava attaccato al collo. Con lui si poteva anche discorrere. Veniva Satataia, che vuol dire la balia, il cui nome diceva che aveva avuto figli e aveva allevato figli altrui, ed era stata 3 o 4 volte a Tunisi, dove le donne del popolo scappavano quando restavano incinte per farsi il bastardo. Dunque doveva essere stata anche bella, non come ora col naso adunco che voleva penetrare dentro la bocca senza denti. Si reggeva male sui femori e camminava appoggiandosi a una lunga pertica lucidata dall'uso. Veniva Baliodda, che portava il costume del lutto, non si sa perché. Veniva lo spasso di tutti, che era Raffaele, un uomo tarchiato e forte, che era stato mozzo di stalla e a un certo punto si era messo a trottare come un cavallo su e giù per il corso. Così faceva da tanti anni e vinceva sempre le sue corse. Tutta questa gente, e chissà quanti altri, si incamminava ogni venerdì, che era il giorno in cui il Signore era morto, verso l'episcopio. E fratel Giossanto dava loro un pane fatto apposta e qualche soldo per soprammercato. E tutti cantavano la gloria di Monsignore, e la fama del Monsignore ricco si spargeva per tutte le contrade. Anche i preti, che tutto dire, avevano la faccia più distesa e si guardavano meno in cagnesco. Ce n'era abbastanza come prova dei miracoli per il giudizio di santità. Monsignor Dettori aveva fatto naturalmente cose più sostanziose, come l'avvio al palazzo del seminario, la restaurazione della chiesa del monte che andava crollando per le indiavolate bufere di quelle altezze. Aveva accolto le suore che i francesi avevano buttato fuori dalla Corsica e le aveva ospitate a sue spese nella grande casa dei Mastino, la cui madre era una Mannu, quelle stesse suore che, cacciate dalla rivoluzione, avevano portato la rivoluzione nella vita feudale di Nuoro, perché si erano messe a insegnare il francese alle sepolte signorine e le avevano costrette a uscire alla luce del sole. Erano queste le suore ricche, come subito furono chiamate, in contrapposto alle suore locali che vivevano di fame, con qualche ricamo o con i proventi di qualche interro, e perciò diventarono le suore povere. Fece insomma Monsignor Dettori tutto quello che avrebbe fatto ogni vescovo per la chiesa militante, ma fu, come nessuno avrebbe immaginato, la chiesa trionfante. I suoi pontificali non avevano nulla a che fare con quelli dei predecessori, e lasciamo stare i canonici, ma i preti, anche quelli senza cure d'anime e quindi senza soldi, camminavano più spediti ed erano guardati di riflesso con un certo rispetto. Non escludo che a qualche prete dei più riottosi il buon vescovo facesse arrivare di quando in quando un aiuto. Certo, sotto il suo regno non vi fu un alterco tra le gerarchie e neppure un lamento.